24 mattino di Alessandro Milan. Dopo quello che abbiamo visto, io le chiamerei sanguinarie, ho visto di tutto all'interno, ho visto tra l'altro 3 anni di primarie continue, prima Renzi perde, poi Renzi vince, prima Bersani vince, poi perde, viene rottamato e così via. Le primarie lui le chiama sanguinarie, lui è Renato Brunetto, ho deciso che vorrei iniziare ogni puntata con una dichiarazione di Renato Brunetto, così dispone al buon umore, insomma mi mette una buona predisposizione d'animo alle 6:32 minuti, eccomi, sono qui, questo è 24 mattino e sono qua con il mio solito carico da 90 di 3 ore e mezza di sonno, vabbè, ma insomma non ci lamentiamo, insomma, che dobbiamo fare, questo è Milan, ci avete rotto i coglioni con questa storia che delle ore di sonno, 5 ore, 3 ore, 4 ore, tutte le settimane sempre sta rotto di coglioni, ma guarda, io sono 30 anni e mi alzo alle 4:30, ma mica da rompere i coglioni a gente come voi, vabbè. Va bene, tossisco anche, saluto Miriam Lucchetti in redazione e poi Filippo Aureggi in regia. Che è successo? Oggi abbiamo rottamato l'Alpino, è il nuovo corso, è Renzi, avrà rottamato l'Alpino e ci ha portato qui un comunistone doc, Filippo Aureggi, no, comunistone doc, non credo, non lo so, comunque in regia c'è lui oggi e allora possiamo aprire il Parlamento? Forza, sono le 7:33 minuti, dovete andare a lavorare, prima il caffè, Il caffè volentieri a tutti quanti. Offre Nicole Minetti, come sempre, e voglio salutare i grandissimi Vincino, eccolo qua Vincino, buongiorno, e poi grandissimo in tutti i sensi, Marione Adinolfi, eccolo qua. Buongiorno. Soliti 15 secondi di preavviso e di sveglia per Mario Adinolfi che... Pronti, ma se Vincino si sveglia ai 5 invece, no? Guarda che Vincino dorme il sonno dei giusti, poco. Trema per l'emozione e quindi è sveglio da presto, non lo so. Vincino è colui che ti fa Varenzi e quindi ce l'ha fatta, eccolo qua Vincino, ce l'hai fatta. Assolutamente, guarda. Un trionfo. Ma non solo io, ormai tutti tifano Renzi, guarda, tutta Italia, completamente, guarda, hanno immolato la ditta, D'Alema e i suoi 101, è stato massacrato completamente, sì. E sta peggio del Cavaliere, il Cavaliere l'ha lasciato in mano a un migliaio di imbecilli, Letta poi ha detto non delle cose terribili sulla Germania, ha detto anche se la Germania guadagna 10 volte di noi, che ci importa rispetto al sogno dell'Europa, 1940 la conquista del mondo. Basta Vincino è partito, trionfo di Renzi, basta, ma c'è D'Alema, attento Vincino, che ha detto vogliono distruggermi ma venderò cara la pelle, D'Alema ha rifiutato, Renzi ha offerto a Cooperlo, gli ha dato una quota, ha detto dai dimmi uno per la segreteria che metto anche uno dei tuoi, e D'Alema pare abbia ordinato dall'alto no, se deve governare faccia da solo, che sa tanto di minaccia, come dire, lo facciamo fuori al primo crocicchio, c'è uno con un randello all'angolo, boom! Hai visto? E ne ha preso 3 di Franceschini allora. Esatto. Allora. Mario Adinolfi, c'è da parlare di Renzi, ovviamente, che succede? La domanda che ti farò subito è: ma tiene in piedi il governo oppure no? E poi nel contempo se n'è stata questa cosa in Italia che si dice sempre: ma gli italiani parlano, ma non scenderanno mai in piazza. E adesso, Mario, c'è qualcuno che in piazza ci va, non si capisce bene chi è. Però... non si capisce bene chi è, che è un po' problematico, secondo me. La cosiddetta rivolta dei forconi, insomma. Una cosa meno sta simpatica, devo essere sincero, insomma non trovo in questo tipo di mobilitazione, ecco, diciamo che quando vedo quelle cose lì, cioè blocchi stradali, difficoltà che poi vanno a ricascare inevitabilmente sulla gente comune, mi viene proprio la nostalgia di Francesco Cossiga, insomma, che robe del genere non l'avrebbe mai consentita. Che vuol dire? Cioè che entrare... Ma guarda, io ieri sera ero ospite di Del Debbio a Rete 4. Io vado in onda il lunedì su 7 gol. Stavo vedendo il funambolo, ma ero con il cuore da quelle parti. E c'erano questi, insomma, che dicevano: ah, bloccheremo a oltranza, non... non c'era neanche una richiesta, cioè, gli ho chiesto, cioè, ma cosa volete? Cioè, qual è la richiesta? Quando è che finisce perché vi danno questo? No. Pensa un po', cosa... ce ne avevo anch'io, ce li siamo divisi con Del Debbio, cioè, ce ne avevo anch'io. Sì, la stessa cosa. Cosa vogliono? Io non ho capito cosa vogliono. Ma manco io l'ho capito. No, nel senso che, Vincino, tu l'hai capito che vogliono. Sì. Vogliono non pagare vogliono più. Vogliono far casino. Basta! Ma vogliono via. Guarda, tutti! Hai presente il programma di Totorrina, quello là, vogliono l'accise, quella cosa là vogliono. No, dai, no! T'assicuro è così. Guarda, dammi due autocarri e ti faccio un blocco pure io, guarda. Assolutamente, sono 40... 15 cosche mafiose siciliane, no? No, no. 4 sigle di piccoli autotrasportatori, sì. Forza Nuova, Casa Pound, Ciccio Coso ed abbiamo fatto la storia. Ecco qua. Ecco, questa è la storia. E bastava no Cossiga, bastava anche meno di Cossiga. Ho capito, ma c'è gente. Bastava Scelba, guarda, e via. No. Però invece abbiamo quel cretino di Alfano, obiettivamente. Quello è totale, no, guarda. Abbiamo il ministro dell'interno. Guarda, agli interni, quello sta dove sta? In Kazakistan per ora, non sta da nessuna parte. È come la cosa del Kazakistan, non c'è lui, ieri non c'era, stava a presentare quello là, il CCD, la nuova lavoro organizzata, ma sicuro. No, ma sai, la cosa è così, basta, è terribile. Vincino è impazzito. No, si fa per scherzare, lo sappiamo. No, io sai, voglio avere Vincino, poi si difende sempre così. No, ma è satira. Io voglio essere messo nella lista di Grillo. Io il mio obiettivo è questo, ecco. Ti segnerò, allora, Grillo nudo ogni giorno sul foglio, lo farò massacrare perché io voglio entrare in lista di Grillo. La lista di Grillo. No, però attenzione, adesso a parte gli scherzi, sì. Però ci sono queste scene, sono immortalate pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, ovunque. Sì. Oggi Mario, su pagina 2 del Corriere c'è un'intervista a un agente della polizia che dice: io mi sono tolto il casco, sì, perché io condivido quella cosa lì, condivido quella protesta, io ho paura anche che ci siano una disobbedienza in arrivo nelle forze dell'ordine, perché dice ho visto gente normale che è anche disperata, contesta per i pochi salari, forse sì, non sono organizzati, ma è un po' la disperazione in piazza. Alle forze dell'ordine, che cioè, la scena del togliersi il casco è stata commentata in maniera molto diversa, c'è arrivata pure una nota ufficiale che diceva era un fine turno, non era una scena, insomma, di solidarietà al manifestante. Non lo so, quello che ha detto Vincino non è satira, cioè ha dato una descrizione molto precisa del movimento in Sicilia, ed è quella roba là, quella roba là. Con ti voglio sempre più bene. Sono molto molto preoccupato dalla volontà di molti segmenti della politica e anche, diciamo, dell'intelligenza di cui tu, caro Alino Milan, fai parte, di prenderli per il verso, questi per il pelo. Io sono questi vanno presi proprio contro pelo, te lo dico la verità. Questa è gente che va presa contro, oppure mi deve dare una piattaforma su cui si sta battendo. Io voglio capire che vuoi, perché se non mi spieghi cosa vuoi, la cosa mi agita, perché se veramente le infiltrazioni sono quelle che descrive Vincino, e sono quelle, non ho nessuna stima né di Forza Nuova né di alcuni mondi di estrema destra né di alcune infiltrazioni pesanti di criminalità organizzata che in quel tipo di movimenti spesso compaiono al sud, in particolare. No, non ho capito, ma io sono dell'intelligenza, cioè ce l'hanno anche con me. Cioè. No, io ce l'ho con te, cioè l'intelligenza gli sta simpatica sta cosa, no? Ieri vedevo che c'è stata durante la trasmissione del Debbio, io ho detto il talk pop più bello che ci sia, no? Allora c'erano a Biancofiore, dice: ah, poverino, che carino, eppure a Bonafede, poverini, che carini, no, poverini un cazzo, cioè sono esattamente il problema dell'Italia, cioè la protesta generica su cui si innestano poteri poco chiari, questa è una cosa proprio che non mi piace. Hai detto tutto perfetto, caro Marione, solo che Quinta Colonna è il talk pop più bello d'Italia dopo Funamboli. Funamboli, sette gol. Per il resto posso sposare quasi tutto. Cioè, noi che siamo confinati a Quinta Colonna perché non siamo invitati al Funamboli. Questo è Vincino, per il resto non facevo una grinza al discorso. Ho saltato tutte e due, mi dispiace. Vabbè, ma... No, però no, tutte e tre, pure Piazza Pulita era terribile, guarda, come si chiama quello fuori dormire, dai, una cosa, guarda. Vabbè, insomma, avete bocciato totalmente. Sì, ho capito. Allora, non vi stanno simpatici, non vi stanno, anzi, sono un po' con una piattaforma di programmatica nulla. Qual è? Ce l'avevi ospite, mi spieghi che voglio. Ma guarda, io avevo un autotrasportatore, diceva in realtà le tasse, le solite cose, lo Stato, le tasse. Cattivi no? cattivi bu, non è la mia forma politica. Che ci siano una serie di persone, c'era anche un commerciante, dice disperato, non riesco più a pagare. Ma sicuramente io non sono d'accordo, ma allora li organizzi politicamente, fai, che ne so, il 5 Stelle, capito, il 25%, non mi fai una protesta generica che rompe le scatole alla gente, perché questa cosa non ha nessun senso se non mi spieghi cosa vuoi, perché allora non c'è, non voglio le tasse, qual è la proposta? Non mi fate pagare le tasse? Non lo so, cioè, no, non almeno esca fuori il generale, qual è il generale, il gruppo di generali che vogliono subito dopo mettersi dopo questi qua, Vabbè, si però, capisce il golpe qual è. A voi, a te vicino, inquieta in un certo senso, cioè vedere, certo, le spiegazioni, le forze dell'ordine, sono finiti i turni, però ci sono anche appunto interviste sui giornali che dicono cose diverse, cioè di alcuni che invece sono intimoriti come analisi, che possa in qualche modo, magari poi tra due giorni non se ne parla più, rientra tutto, però cioè, vicino, per te non c'è nulla di cui c'è anche preoccuparsi, c'è qualcosa dietro, sì, assolutamente no. Generale. Guarda che l'Italia, prima c'era, quando Andreotti andava all'estero si preparava il colpo, da qualche parte, no? Io una volta facevo il militare in caserma, sono stato tutta la notte sveglio perché dovevo dare segnali fuori che cosa succedeva in caserma. Sì, vabbè, a proposito, Andreotti come sta? Il busto di Andreotti? Da un sta po' che benissimo, no. Sta là, sta fuori, lo devo mettere dentro ora, è vero, hai ragione. Arriva l'inverno, dai, tieni no, un po'. No, per il pericolo di golpe, questo è assolutamente. No, ma ha fatto capire di no, perché questi qua perché fanno la cosa? Perché poi arriva qualcuno e mette ordine, e il povero Renzi ha fregato. Ecco, a proposito di Renzi, allora parliamo un pochino di Renzi, dai. Hai visto, Vincino, che bella masnada di 37enni, 35enni. Ma tanto quelli non contano niente, la segreteria non è nulla. Mamma mia. Quella Mario, di pensare che era Zogga, cosa e quell'altro, dai, 7 10 Zogga, deficienti. Ma no, 10 deficienti. Lo storico, dai, perché, scusami. Ma Marione, ma di qualcosa. Però Vincino è lucido. Lucido, guarda, questa è una grande novità del PD, perché sperimenta l'uomo solo al comando, il resto non ha senso. Cioè, anche per te, Mario, la segreteria è tutta una roba di facciata. Ma no, facciata è una cosa, un organo così, ovviamente quasi di staff del segretario, ma non ha un peso politico, non è che siccome c'è Francesco Nicodemo alla comunicazione adesso cambia, questo ha un ruolo politico, no, questo è Matteo Renzi alla testa. È interessante un elemento perché la composizione, diciamo, la correntizia, va, che poi dopo mi menano quelli del PD, della segreteria, spiega qual è l'asse su cui si regge questa segreteria, che è un asse cui Matteo è dominus assoluto, ma vedo che ha messo 3-4 franceschiniani, quindi diciamo quello che deve occuparsi di tenere buona la vecchia truppa è Dario Franceschini, insomma, quindi l'asse è costruito questo qui, insomma. Però bisogna capire, lo facciamo ripartendo dopo le informazioni sul traffico e dopo l'arrivo della mitica segreteria telefonica, capire se Renzi sosterrà o no Letta. Ieri si sono visti e ha detto che lavoreremo bene insieme, ma qualcuno fa già capire che sono quelle classiche frasi che si dicono in questo momento. In realtà Renzi punterebbe già a capire, così avrebbe detto ai suoi, o il PD fa quello, il governo fa quello che detta il PD, cioè io, oppure si va a votare tra poco. 24 mattino. Caro Milan, la radio costa, non voglio sentire parlare alle 6 di mattina di Dudu, Dada e di quell'uomo che è pubblicamente morto. Mettiamoci la bara sopra completamente, senza parlarne più. C'è niente da fare, è nel DNA dell'italiano. Se non avesse questi politici non saprebbe di che discutere la mattina, di lamentarsi. Andate avanti così, viva l'Italia. Via il porcellum, restano i maiali. Ma i maiali, quando sono belli grassi, vengono macellati. Nelson Mandela è l'opposto di Silvio Berlusconi. Lui ha fatto 27 anni di carcere e quando è uscito non ha infierito contro nessuno e ha portato il suo popolo alla libertà. Lui solo per averlo condannato vuol sfasciare tutta l'Italia. Si vergogni, pensa solo ai suoi interessi. Per sempre ti chiamerò Trottolino Amoroso Du Du Du Da Da Da. Il movimento dei forconi vuole fermare l'Italia, ma come mai che nessuno gli ha detto che l'Italia è ferma da anni? Finalmente ci siamo tolti dalle scatole d'Alema. Finalmente. Milan, altro che arrabbiata. Arrabbiata con te sì, perché tu alla tua età, 43 anni, dovresti andare a dormire alle 3, alzarti alle 5 e dire di aver dormito 8 ore e andare a lavorare. Non stare a casa. Ciao. Ma che insomma... Vabbè, questa è la nostra segreteria telefonica. Maria, hai da dire qualcosa? No, ferma. No, sempre no. Più deliranti, divertente pure quest'ultima. Che voleva, non ho capito. Ma no, perché no. Ieri non ho lavorato qui in radio e allora... Protestava, ero a farmi innamorata, ho capito. Sì, può essere, da. Allora... Siamo al delirio, prescrivo Prozac ormai ai tuoi radioascoltatori. No. Al mattino una bella pillolina e passa tutto, signori. No, assolutamente no. Dai, allora, finisce con i forconi. Allora, Vincino, caro Vincino, Renzi terrà in piedi Letta oppure... Natale, fa passare Natale, guarda. Sì. Ah, addirittura. Sì, fa passare Natale perché lui è anche stanco, no? Ha problemi in famiglia, non sa come mettere la persona, dei disastri in famiglia questo qua, no? E niente, ma dopo là cominciamo il 10 gennaio, 15, sì? 20 gennaio. Finita l'epifania, via, basta. Lo fa cadere, ho capito, lo fa cadere, dopo dal 10 gennaio appunto. Cade, perché no, non lo fa, la colpa poi sarà di Alfano, perché Alfano non riuscirà a fare niente, sarà di qualche altro. Altro la colpa, no, sarà di coso e lui salverà l'Italia. Questo cos'è come scenario? È sempre lucido, caro Adinolfi, il nostro Vincino, questo farà Renzi? Ma una cosa la fa fare, perché sicuramente faranno un accordo sulla legge elettorale. Fossi io Renzi, telefonerei a Berlusconi e a Grillo in queste mattinate, senza perdere tempo, dicendo: lo volete o no il Mattarellum, che è una legge che si fa con... un articolo, siccome tutti e due si sono già detti disponibili a quel tipo di soluzione, fossi in lui mi andrei a prendere di corsa quella soluzione sul piano della legge elettorale. Dopo una volta fatta la legge elettorale, tu hai la sentenza della Corte che dichiara non sostanzialmente legittimo questo Parlamento. La legge elettorale rifatta, il minuto dopo fai trovi un incidente di Sarajevo e vai a votare. Ma come una volta, tanto una volta fatta la legge elettorale? Ma sono 32 settimane che devono fare la legge elettorale. Una nuova non la possono la fare, perché c'è il 90% del Parlamento che la sentenza della Corte. È chiaro, la deve fare, altrimenti sì, è la sentenza esecutiva. Non può andare a votare con quale voto, con questa legge non si può. Ma chiaro, Vincino, che c'hai? Assolutamente, come dice lui, rifanno il Mattarello, è l'unica che possono fare, qualsiasi altra si imbrogliano, si incassinano, quella là, tanto con quella hanno vinto loro, hanno vinto tutti col Mattarello, è che si riusciva, ecco, basta... stare attenti a come fai gli accordi delle liste e si vince così. Vabbè, voglio chiudere con questa, visto che l'ascoltatore ci diceva non voglio sentir parlare di Dudu da niente, basta, parte Forza Dudu, il piano animalista di Berlusconi, che ha detto dobbiamo fare qualcosa per i cuccioli che non hanno avuto le stesse fortune di Dudu. Dudu Marione ha affidato tutto alla Brambilla, l'animalista. E allora siamo a posto, è una bella lista animalista, diciamo così, possiamo. Ma voi scherzate, guardate che Berlusconi punta a questo, punta a prendere i voti agli amanti degli animali. Vi ricordate che Caligola fece il cavallo senatore, no? Insomma, voglio Dudu in Parlamento. Oh, ma sarebbe fantastico! Vincino, te lo vedi, onorevole Dudu! Alla parola sarebbe bellissimo. No, Vincino, no, non sarebbe bellissimo. Pensa alla satira, quanto ne guadagni, quante vignette potresti guarda fare. Guarda che l'ha già fatto comunque. Sì, ho capito, ma quanti Dudu io l'ha ma già da fatto da un lato e da là, tutti ne hanno fatti a centinaia. L'ha già fatto, pensavo Vincino disegnare Dudu, no? Dici, l'ha già fatto i parlamentari Dudu. L'unica cosa che spero che faccia Renzi è che attacchi la cassa depositi e

e allora abbonderanno gli articoli. D'altronde Berlusconi ha detto: voglio puntare ai voti degli animalisti. Eccolo qui, il Corriere della Sera, Tommaso Labate, a pagina 13, che ci scrive un bell'articolo dal titolo «Parte forza Dudù, il piano animalista del Cavaliere». Berlusconi che dice da tempo: «Odio le pellicce, un regalo che mai farei a una donna», ha lanciato Forza Dudù, due indizi che vengono uniti alla prova, cioè al lancio del sito internet Forza Dudù, insomma punta agli animalisti. Berlusconi ha anche pensato nell'immaginare la struttura di punti di ascolto e sostegno per chiunque abbia difficoltà nella sua vita con l'animale domestico. Basta questi articoli, vi prego, non fatene più neanche mezzo. Caro Tommaso Labate, la carta costa, anche al Corriere della Sera, il giornale radio. 24 mattino. Eccoci qua, eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 20 minuti. Allora, cari italiani, ci siamo svegliati ieri con un paese un po' cambiato, politicamente certamente, con la vittoria di Matteo Renzi al, come segretario al Partito Democratico, uno che presenta una squadra di 37enni di media a collaborare alla segreteria. Un Renzi che ieri ha visto Letta, ha detto: lavoreremo bene insieme, ma oggi già tutti i giornali dicono mai la classica dichiarazione di facciata, si parla già di divergenze sulla riforma elettorale, di un Renzi che ai suoi in realtà dice: o il governo fa ciò che il PD detta come agenda, e sottinteso il PD adesso siamo noi, insomma la nuova squadra, oppure tanto meglio andare a votare. Insomma, si torna a parlare di orizzonte di incertezza politica. In tutto questo ci siamo svegliati anche con alcune persone che manifestano nelle strade, persone anche difficilmente catalogabili, i giornali ci provano ma non ci sono sigle unitarie, sono diverse sigle, si parla di movimento dei forconi ma in realtà ci sono un po' tutti, cittadini, anche di disoccupati, studenti, pensionati, piccoli imprenditori esasperati, c'è stato purtroppo anche qualche violento, insomma tutte queste persone in strada a protestare, a dire tutti a casa, basta. Beh, ma tutti a casa che vuol dire? Non si capisce bene. Non è proprio la latitanza della politica di dare risposte concrete che forse esaspera gli animi di persone disposte a dire: vabbè, ma a questo punto se non c'è alcun orizzonte scendiamo in piazza. Allora, di questo vogliamo parlare con alcuni protagonisti della politica, con anche il vostro parere. 800 24 0024, cari ascoltatori, se volete chiamarci. Io voglio salutare gli ospiti. Torna con noi l'onorevole Yoram Gutgeld del Partito Democratico. Buongiorno e ben ritrovato, onorevole, eccoci qua. Buongiorno. Saluto anche Matteo Salvini, neosegretario della Lega Nord. Benvenuto e bentrovato, Salvini, eccoci. Buongiorno, buon ascolto. Senta, Gutgeld, intanto le chiedo, queste persone che sono in piazza, alcune le ha sentite, non sembrano neanche credere neppure nella svolta di Matteo Renzi, lei che insomma è vicino politicamente anche a Matteo Renzi, perché dovrebbero credere queste persone che in piazza le ha sentite, molte dire tutti via, tutti a casa, perché dovrebbero credere che con Matteo Renzi è la volta buona di una svolta per il paese? Ma intanto la protesta è una protesta forte, una protesta che riflette disagio e una difficoltà sociale ed economica che perdura da tempo. Quindi bisogna darne atto noi abbiamo il dovere di cercare di dare risposte a questi disagi. Matteo Renzi rappresenta sicuramente un fatto importante, un Partito Democratico che ha prima di tutto un leader forte, un Partito Democratico che ha un'agenda nei prossimi mesi molto chiara. L'agenda è legge elettorale che ci permetterà di governare, una riduzione dei costi della politica, che di per sé non risolve il problema del paese, però dà un segnale forte, e un terzo elemento invece che cerca di rispondere alle difficoltà delle persone, che è una serie di iniziative sul lavoro per cercare di dare una risposta alla disoccupazione e alla mancanza di lavoro. Per esempio, sul lavoro oggi il responsabile scelto Taddei, professor Taddei, per quel che riguarda le questioni economiche, dice: io, se sono un imprenditore e voglio dare 100 euro in più a un lavoratore, dobbiamo abbassare assolutamente l'IRPEF, perché non è mica possibile che se un imprenditore vuol dare 100 euro in più in busta paga a un dipendente, questo se ne trova poi 40. Questa ci può confermare, lei che di economia si occupa, può essere una linea sul tema del lavoro da affrontare, abbassare l'IRPEF? Allora, questa è un'idea di cui abbiamo già parlato un anno fa, quindi assolutamente la priorità assoluta è ridurre le tasse sul lavoro, ridurre le tasse sul lavoro per i lavoratori di fascia di reddito medio-bassa. Questo ovviamente presuppone, da un lato, un'azione di recupero dell'evasione fiscale e dall'altra parte una riduzione di spese dello Stato. Sono processi che richiedono tempo, però certo, sono sicuramente delle priorità. Per esempio, dove si può tagliare subito, secondo lei, nello Stato? Allora, il problema sulla riduzione dei costi dello Stato non è il dove, si può tagliare ovunque. Il problema è il come. Il come significa, prima di tutto, fare dei piani seri. Non si possono fare tagli lineari che si traducono da oggi a domani in riduzione di spesa. Bisogna ristrutturare i servizi. Faccio un esempio, così do un'idea. Prendo il settore forse più tartassato negli ultimi anni e più in difficoltà, che è la sanità. Anche nella sanità si possono ridurre i costi. Per esempio, se noi spostiamo i malati cronici da ospedali cosiddetto per acuti, ospedali dove si fanno operazioni a cuore aperto che costano 1000 euro al giorno per un paziente, a ospedali cosiddetti per lunga degenza che costano 300 euro al giorno, potremmo risparmiare 2 miliardi. Però questo richiede che noi ristrutturiamo i servizi. Sono tutti processi che vanno pianificati. Ci vuole del tempo, ci vuole responsabilizzazione dei ministeri, delle regioni e così via. No, ma certo, ci vuole tempo. Il problema, e vorrei coinvolgere qui anche Matteo Salvini, è che parte più o meno ampia della popolazione, non so quanto ampia, non so se è anche rappresentata plasticamente da quelli che sono andati in piazza, il tempo, come dire, non è più disposto a concedere di tempo alla politica. Salvini, le chiedo anche questo: lei condivide le manifestazioni? Perché dalla Lega c'erano state parole abbastanza di appoggio rispetto a questo movimento un po' così variegato che è sceso in piazza ieri. Lei condivide queste forme di protesta oppure no? Assolutamente, oggi ci saranno agricoltori, allevatori, produttori che sfileranno coi trattori per Milano a difesa del loro lavoro, delle loro stalle. Io non ho sentito parlare dall'esponente del Partito Democratico del principale problema e ostacolo alla ripresa del lavoro, che sono i vincoli europei e della moneta unica. E quindi io sono assolutamente in piazza, in strada, con i non violenti. Ieri si sono infilati a Torino purtroppo centri sociali, ultra della Juve, di tutto e di più. Però gli artigiani, i camionisti, i taxisti, gli ex imprenditori, mi sembra che ci sia un mondo della politica che parla degli imprenditori come se fossi in un momento tranquillo, bisogna valutare, bisogna provare a ridurre l'IRPEF. Ormai sono più gli ex imprenditori degli imprenditori, sono più gli ex artigiani degli artigiani. Quindi secondo lei fanno bene ad andare in piazza, però guardi che si lamentano soprattutto della politica, cioè si lamentano. Ma nei loro panni me ne lamenterei anch'io, poi non sono, io ci ragiono, ma anche ieri ne ho incontrati. Non pretendo di convincere nessuno, anzi non voglio mettere bandiere rispetto alle manifestazioni in autonomia, senza simboli di partito, perché è giusto che sia così. Sono rimasti delusi, troppe parole, troppe promesse e pochi fatti, però in piccolo poi la politica può fare. La riforma della sanità di cui parlava il parlamentare del Partito Democratico in Lombardia c'è, l'abbiamo fatta. Ieri in piazza non c'erano un migliaio di esodati in più a manifestare, perché la Regione Lombardia ci ha messo i quattrini per accompagnarli alla pensione tramite la mobilità. Quindi la politica, se vuole, fa, risolve. Però io temo che tutta l'impalcatura, i sorrisi, i giovani uomini e le giovani donne di Matteo Renzi, se non si ha il coraggio di ridiscutere a monte quella che non è l'unica, per carità di Dio, perché lo Stato italiano ha le sue ma una delle problematiche. Ma è il principale, dal mio punto di vista, ostacolo allo sviluppo del lavoro e del mercato, soprattutto interno, che si chiamano vincoli europei demenziali e si chiama moneta unica E io Radio 24 l'ascolto volentieri perché è una delle poche che ha il coraggio di entrare nel merito, non solo la slogan, di questi temi. O si ridiscute l'Europa, la si ricostruisce da capo a costo di uscirne in maniera concordata, a costo di ridiscutere e uscire in maniera concordata anche dall'euro, che si chiama, è il marco tedesco. Noi oggi, Chi ci sta ascoltando in tasca non ha gli euro oggi, ha dei marchi tedeschi che hanno cambiato il nome in euro. Camuffati. 11 anni di cura euro dimostrano chi ci ha guadagnato e chi ci ha smenato. Quindi o si ha il coraggio e la forza di ridiscutere tutto da capo, ma io ho sentito purtroppo qualche esponente renziano ha detto non si può, viva l'Europa, chi tocca l'euro muore, anzi saremmo rovinati, come se non avessimo 5 milioni di poveri, 5 milioni di disoccupati, voglio dire. O si ha il coraggio di fare questo? Oppure la situazione è questa. Vediamo, Gutgeld, la questione per Salvini è lì, è partita, sai, partirà la campagna, tra poco si voterà alle europee, ma chissà, forse tra poco si voterà anche in Italia, non vogliamo dirlo, onorevole Gutgeld, ma per Salvini il problema è proprio lì, l'Europa, i vincoli europei, e su questo Renzi è invece un europeista convinto, è su questo che Salvini dice non ho sentito risposte da parte del Partito Democratico. Lei condivide? Ma iniziamo col dire che quando si parla di contrasto all'evasione, di riduzione della spesa, di tutte le belle cose di cui stiamo parlando, che sono i problemi veri di questo paese, noi abbiamo chi esporta in Italia con tutte le difficoltà funziona bene, ha una produttività simile a quella dei tedeschi e di altri paesi europei e va bene. Il problema nostro è tutta la gestione dell'economia interna, in particolare dell'apparato pubblico. Quindi si è parlato di riduzione di spesa e di contrasto all'evasione. Mi spiace dirlo, però la Lega è stata al governo per 9 anni e ha combinato assieme a Berlusconi dei disastri totali. Quindi iniziamo ad affrontare sul serio i problemi veri che sono questo. Dopodiché, per quanto riguarda l'euro e l'Europa sicuramente rappresentano una serie di problematiche che se abbiamo tempo possiamo anche entrare nel merito specifico. Però il dato di fatto è che noi l'ingresso dell'euro e dell'area di cambi fissi alla metà degli anni 90 ha salvato il paese, ci ha permesso di non fallire. Dopodiché negli anni non abbiamo fatto le riforme che dovevamo fare e ci troviamo in queste difficoltà. La soluzione dell'uscire dall'euro, che è così bella, così sembra la soluzione ai nostri problemi, se mi dà un minuto spiego il secondo perché questa cosa sarà un disastro. Perché? Allora, cosa succede? Faccio un esempio così lo rendo molto concreto. Io ho un debito verso un americano, verso un tedesco di 100 euro. Esco dall'euro, svalutiamo la moneta, quindi non abbiamo più euro, abbiamo lire che non valgono, quindi 100 euro che avevo non valgono 100, valgono 70. Sì. Io non sono più in grado di ripagare questo debito. Allora, una delle due, o dico all'americano, al tedesco, al cinese, in cui sono in debito, io non te lo pago. Se non te lo pago, cosa significa? Significa che nessuno poi ci presta soldi per far andare avanti lo Stato fallisce il giorno dopo. L'alternativa è dire senti, io non sono in grado di pagarti i 100 euro, però ci mettiamo d'accordo vuol dire fare un accordo che hanno fatto la Grecia, la Spagna, adesso minore, che significa sostanzialmente delle misure da cavallo, vuol dire meno 30% dipendenti pubblici, meno 30% stipendi, meno 30% pensioni. Insomma, altro che l'austerità di Monti. Come la vede, insomma, da entrambe le parti, o non paghiamo, diciamo, il debito ricontrattato, oppure per pagarlo dobbiamo fare delle misure che poi sono socialmente poco sostenibili. Salvini, stia con noi perché devo dare la pubblicità. Una replica a questo, ci raggiungerà anche il sottosegretario dei trasporti Rocco Girlanda per cercare di capire cosa succederà oggi e come intende rispondere il governo a eventuali nuovi blocchi e proteste. Tra pochissimo con noi 24 mattino. Eccoci qua alle 8:38 minuti insieme all'onorevole Yoram Gutgeld del Partito Democratico, a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord. Saluto anche il sottosegretario dei trasporti che ha la delega proprio all'autotrasporto, Rocco Girlanda. Buongiorno e benvenuto, Girlanda. Eccoci. A voi. Sono subito da lei, però Salvini, vorrei una replica. Insomma, ha sentito Gutgel, quella che lei propone come l'uscita dall'euro, come la salvezza è per Gutgel dell'inizio della fine, in pratica non riusciremmo più a ripagare i debiti, saremmo non in grado più di ottenere soldi, per cui o drastiche riforme, tagli, bagni di sangue, diciamo, dal punto di vista degli interventi del sociale stile Grecia, oppure arrancheremmo, Salvini. Eccola là, la linea è caduta. Allora, Rocco Girlanda, le chiedo questo, sottosegretario dei trasporti. Intanto, qual è la situazione e dovessero continuare questi blocchi? Lei è d'accordo quando il garante dei trasporti dice sequestrare anche i mezzi, cioè linea dura, se ci dovesse essere una protesta non controllata? Ma guardi, io credo che in un paese civile una protesta non controllata vada ovviamente combattuta con tutti i mezzi a disposizione, perché va bene protestare al limite anche in un momento di crisi profonda come quella che sta vivendo l'Italia o l'Europa, perché un blocco tipo quello a cui stiamo assistendo ovviamente può determinare delle conseguenze pesanti sulle economie, ma è chiaro che se si esce fuori dalle regole, protestare va bene, ma bisogna intervenire assolutamente in modo pesante con tutti i mezzi a disposizione, perché non è possibile, e vedo che in alcuni tratti si sta raggiungendo veramente delle questioni di irresponsabilità. Quali per esempio? Quali sono le zone che vi preoccupano di più? Ma no, guardi, nel momento in cui ci sono, non dico dei feriti, ma insomma dei malmenare un carabiniere, viene assaltata la troupe di Sky 24, eccetera, io credo che questo non può assolutamente accadere. Ci tengo a dire, in questi giorni sono, diciamo, bombardato da tutti i media, ci mancherebbe altro, per la mia delega all'autotrasporto, che comunque questo non è un fermo, non è uno sciopero dell'autotrasporto, perché gli autotrasportatori in Italia ci sono molte sigle che non hanno aderito, non molte sigle, il 95% delle sigle non hanno aderito e hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero che li soddisfa appieno, consenta di dirlo. Quello che non ho capito è diciamo gli autotrasportatori che stanno scioperando, e lo dico con estrema franchezza, il motivo per cui scioperano. Cioè non ha capito cosa vogliono in realtà. Tutto quello che hanno chiesto noi abbiamo fatto e abbiamo realizzato. Mi sono reso disponibile ancora a continuare un tavolo dove posso valorizzare, analizzare le richieste. Certo, non si può chiedere per legge che dobbiamo imporre che una fattura emessa da un autotrasportatore venga pagata, è come se qualcuno mi dicesse per legge devo imporre che un cittadino non si può ammalare. Questo è impossibile, siamo nell'era della fantasia. Allora Salvini, abbiamo ripristinato la linea sulla questione dell'euro, intanto, non per fare un passo indietro, ma insomma la risposta è la dovuta a Gutgeld, e se vuole anche il sottosegretario dei trasporti dice non capisco coloro che sono in piazza, per quel che riguarda gli autotrasportatori, che cosa vogliono in realtà. Ma sono vittime anche loro di un mercato assolutamente privo di regole che sta danneggiando nel nome appunto del profitto e di un'Europa demenziale, camionisti, taxisti, artigiani, pescatori, agricoltori, infermieri, maestri di sci, i vincoli dell'Unione Europea stanno massacrando il lavoro. Io ho sentito la tirata pro euro del responsabile economico del PD e mi preoccupa che sia responsabile economico. Ma non credo che sia responsabile, non è proprio responsabile, è uno dei consulenti, di diciamo. Perfetto, certo, è consulente. Perfetto, guardi, io mi metto all'ultimo posto e sono l'ultimo degli ignoranti. Mi permetto di suggerire agli ascoltatori, che adesso magari sono in macchina, quando arriveranno a casa, suggerisco loro di digitare su Google, sul motore di ricerca, tre parole: Nobel anti-euro. Perché ormai siamo arrivati con settimana scorsa a 5 premi Nobel per l'economia che suggeriscono all'Italia di uscirne subito dall'euro. L'ultimo, James Mirrlees, giusto 15 giorni fa, sì, dice: guardando dal di fuori dico che non dovreste stare nell'euro un minuto di più, ma uscirne adesso però, perché vi conviene. Salvini, mi scusi, questo è un dibattito che c'è, ma non è troppo comodo però dare tutta la colpa all'euro, e invece la gente che è in piazza dice: la politica cosa ci hanno fatto, cioè le riforme dove sono? La gente in piazza è anche per riprendersi la sovranità sul trasporto, sul commercio, sull'impresa. Con questi vincoli europei, con questa moneta criminale, io sentivo i disastri qualora uscissimo dall'euro. Qualcuno si è accorto che la riforma Fornero ha fatto macelleria sociale di milioni di pensionati e di migliaia di esodati? qualcuno si è accorto che abbiamo un tasso di povertà e di disoccupazione che sembra da seconda guerra mondiale? Qualcuno degli euro entusiasti che dice se usciamo è un casino si è reso conto che abbiamo una disoccupazione giovanile al 41%? Insomma, lei dice, Guttgel, il disastro è ora e adesso, dice Salvini, non è che se facciamo le cose tipo fare una bella campagna anti-Europa, Guttgel. Chiaramente Salvini, a cui peraltro faccio gli auguri per il suo nuovo incarico, ovviamente loro dicono la cosa più facile da dire, ma ripeto il concetto, i nostri problemi, peraltro i problemi sono soprattutto nostri, sono dovuti a anni e anni di gestione disastrosa del paese di cui loro erano al governo. Adesso la soluzione a anni e anni di disastro di gestione è uscire dall'euro. Però il bravo Salvini non ha risposto alla mia domanda. Se io esco e non riesco a ripagare il debito, cosa succede? Non ha risposto perché non è in grado di rispondere. No, però dice non è la sua materia economica. Non so, Salvini, è una questione di competenze economiche oppure... Rispondo... No, ma guardi, rispondo sì. Volentieri. Un'uscita controllata, coordinata, non della sola Italia, ma ad esempio coordinata con la Francia e con la stessa Germania, con un tasso di conversione 1-1, non pone alcun tipo di problema. Adesso non voglio fare un dibattito socio-economico, però ripeto, fortunatamente ormai gli euro entusiasti alla Prodi, perché io sento siete stati 9 anni il governo, esattamente gli stessi anni del Partito Democratico, di cui è esponente l'altro ospite in studio, punto e a capo, ma siccome in piazza c'è gente che ha fame, non mi interessa dire colpa di Prodi, è colpa di Berlusconi, tu cosa hai fatto 15 anni fa, mi pagano lo stipendio per risolvere adesso i problemi, e quindi siccome io mi rendo conto da europarlamentare che ci lavora, che la metà delle mie battaglie sono vanificate da scelte altrui, nel nome appunto del mercato, del profitto, della concorrenza, della Cina e di quello che volete voi, ora discutiamo queste regole, oppure l'evasione fiscale, qualcuno ha il coraggio di dire che senza un tasso di evasione fiscale di sopravvivenza la metà degli imprenditori e degli artigiani che ci stanno ascoltando adesso avrebbero già chiuso da l'evasione, perché se uno arriva a fine mese, a dover scegliere se pagare lo stipendio al dipendente o se pagare le tasse, se sceglie di pagare lo stipendio al dipendente non è un evasore ma è un eroe, perché tiene in piedi un'azienda che uno Stato ladro come è l'Italia gli vorrebbe far chiudere. Quindi anche sta menata qua dell'evasione tutti col Porsche, col BMW, non è più così. Se un artigiano non potesse fare una parte di nero, ma questo lo sanno anche i pali della luce, saremmo già chiusi. Va bene. Avremmo già chiuso. No, facciamo così, so che Salvini forse ci deve lasciare qualche minuto prima, spero possa stare con noi, tanto tra 7-8 minuti abbiamo chiuso, do le informazioni sul traffico, poi riparto dal sottosegretario Girlanda, perché insomma come vedete ci sono questo tipo di contestazioni anche che continuano e che effettivamente anche lo stesso sottosegretario dice, almeno per quel che riguarda la categoria degli autotrasportatori, non ho ben capito che cosa vogliono. Vediamo se può essere anche l'Europa uno degli obiettivi, per quanto ha capito il sottosegretario. Tra poco. Eccoci qua alle 8:48 minuti. Allora, sottosegretario Girlanda, lei ha sentito tra l'altro forse le informazioni sul traffico, ecco, per esempio a Modena Nord bloccata, chiusa l'uscita. Le sembra normale? No, lei ha già detto questo tipo di proteste. Come dovrebbe intervenire il Viminale? Ha visto anche ieri, non so, alcune immagini, per esempio, di alcuni poliziotti che si sono tolti il casco. Insomma, è una situazione un po' strana, non facilmente descrivibile, anche un po' che rischia di sfuggire di mano, le chiedo. Guardi, ho ascoltato molto attentamente i ragionamenti degli amici che mi hanno preceduto, ai quali porto ovviamente tutto il rispetto dovuto, essendo degli alti rappresentanti della politica di questo paese. Mi sembra che i toni siano molto da campagna elettorale, non come è necessario in questo momento di alta responsabilità. Io so benissimo quali sono i problemi del paese relativamente appunto agli interventi da fare nell'economia, ma tutti sanno benissimo che il bilancio dello Stato, mi riferisco ad esempio alle infrastrutture, è assolutamente congelato. in questo momento. Noi non riusciremo a fare infrastrutture in questo paese se non attraverso il project financing, perché non siamo capaci di poter indebitare in questo momento il paese. Una ripartenza non credo che sia assolutamente una mal ripartenza, una mancata ripartenza dovuta a questo o a quel governo. Bisogna prendere atto di che questa è la situazione. Sì, però concretamente invece su quello che sta succedendo anche oggi, per esempio lei a Modena, cioè che si fa? Cioè lì c'è un blocco, che si dovrebbe fare secondo lei? Come dovrebbe reagire un governo? Intanto devo dire che per quello che risultano i dati che mi stanno passando, praticamente gli automezzi stanno circolando nella grande maggioranza del paese. In quelle piccole cose ovviamente bisogna per forza far sì che il Viminale intervenga attraverso la polizia e cerchi di ristabilire un clima di legittimità, perché in questo momento è il momento della responsabilità. Il paese non può aver questo tipo di situazioni, ovviamente con il pieno rispetto di chi sciopera, che noi siamo pronti come governo su qualunque tavola ad ascoltare e ove possibile a intervenire. Insomma, ascoltare e intervenire, però non questi blocchi tra virgolette selvaggi. Perché fanno male all'economia del paese. Noi abbiamo un Natale che è già partito a stento. Sì. Nella freddezza dei secondi per la radio va spiegato in questo modo, e quindi non possiamo in alcun modo metterci anche problemi di questo tipo, perché sarebbe veramente devastante per l'economia, per il PIL. Guttgeld, le chiedo questo, cioè lei cosa vede, un po' ce l'ha già detto, una sorta di propaganda politica per quel che riguarda la Lega, perché appunto c'è una campagna elettorale in arrivo, comunque quella delle europee, e quindi il salvifico toccasana sarebbe quello usciamo dall'euro, oppure guarda che effettivamente quando Salvini parla di economisti, persone che hanno aperto questo dibattito, c'è un dibattito in corso a dire forse l'euro ci ha davvero danneggiato e forse sarebbe il caso di uscirne da questa situazione. Ma io direi che è un ottimo dibattito, credo però che bisogna parlare di cose concrete, perché di solito cosa si dice? Ah, le cose vanno male, è la conseguenza dell'euro. Parliamo di cose concrete, e non sarà la sua materia di specializzazione quella dell'economia per Salvini. Però quando uno dice si esce l'uscita controllata uno a uno, che vuol dire che noi usciamo e non svalutiamo, ovviamente è una cosa che non sta in cielo in terra. Si sa benissimo che l'obiettivo di uscire è quello di svalutare la moneta del 30%, che questo è il motivo per cui dicono quelli che noi non riusciamo a esportare, non riusciamo a sviluppare, abbiamo i vincoli. Di questo stiamo parlando. Allora io invito, e devo dire, ringrazio per questa trasmissione, perché è un bel modo per iniziare a fare questa discussione, di parlare di cose concrete. Volete uscire dall'euro? Ci spiegate come funzionerebbe. Se non parliamo del nulla e ricadiamo nel populismo. Comunque, il problema, io temo che nei prossimi mesi avremo un clima da campagna elettorale, anti-euro, sì, sì. A cui bisognerà far sforzo per spiegare. Noi dobbiamo spiegare alle persone il perché siamo nell'euro, del perché uscire dall'euro sarebbe un disastro, un disastro soprattutto per i deboli. Pagherà per l'uscita dell'euro i deboli, quelli che Salvini dice di voler proteggere, e quali sono le cose che invece dobbiamo fare. No, ma certamente sarà così, perché Grillo l'abbiamo già sentito, pare che anche Berlusconi vuole fare campagna no euro, la Lega certamente. Salvini, però le chiedo questo in conclusione, molta gente, o poche o tante persone, che ieri hanno identificato, per esempio a Torino, che è stata la piazza più calda, un elemento di contestazione, lo hanno trovato nella regione Piemonte, a guida Lega, dove sappiamo c'è tutta la polemica sui costi della politica, è indagato anche il governatore Cota. Allora, ecco, perché dice noi sposiamo in qualche modo non certo i violenti, ma quelli che sono andati in piazza? Alcuni di loro hanno identificato proprio nella politica, non tanto nell'Europa, un elemento concreto che era lì davanti ai loro occhi, il loro bersaglio da contestare. Guardi Milan, quelli che ieri hanno lanciato le Molotov contro Regione Piemonte erano i centri sociali, i Notav e gli ultra della Juventus, quindi non c'entravano una beata fava con i forconi, con gli agricoltori. Chi lancia una bottiglia Molotov non è una persona per bene. Io saluto, so che vi stanno ascoltando da tanti presidi, invito a tenere duro, non per motivi elettorali, ma perché se uno mette in discussione se stesso a costo di infrangere la legge per salvare il lavoro e il futuro per lui e per suo figlio, va rispettato. Quindi quelli che hanno lanciato Molotov perché sono incazzati come ultra o come centri sociali sgombrati, non li considero minimamente. La Lega sull'euro e sull'Europa ha questa posizione non adesso che siamo in campagna elettorale, ma dal 1998. È 15 anni che ci prendono per matti perché osavamo discutere questa Unione Europea, questo euro. Parlavamo di dazi, ve lo ricordate? Barriere doganali, dazi, ma volete tornare al Medioevo? Adesso ci arrivano. Adesso piano piano, con 15 anni di ritardo, ci arrivano tutti. Rispondo e mi rendo disponibile a dibattere di economia e di moneta anche domani mattina, perché è il problema vero. Paul Krugman, Nobel per l'economia, dice che l'euro è un progetto campato in aria. Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, ha appena scritto che orribile idea l'euro. L'euro è stata un'idea orribile, una moneta unica non è un buon modo per iniziare a unire l'Europa. Vabbè, ma certo, queste... Joseph Stiglitz, sì, Nobel per l'economia, anche lui dice fuori dall'euro prima che sia un disastro, perché i deboli sono già stati massacrati in questo momento. Allora, usciamo e ridiscutiamo. Sì. O è la morte. No, ma questo lavoro. Sì, è certamente il dibattito che ci sarà nei prossimi mesi. Lo faremo ovviamente in maniera concreta, al di là degli slogan no all'euro o sì all'euro, perché per cercare di capire se può essere una soluzione possibile oppure no. Io intanto ringrazio tutti: Yoram Gutgel del Partito Democratico, Matteo Salvini, segretario della Lega, Rocco Girlanda, sottosegretario ai trasporti. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30. State con noi. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.